fatto che vengono elaborati i cazzi. E questo libro, che dopo potete vederlo in fondo, che forse può essere anche utile per capire, è un viaggio iniziato per caso, è un viaggio anzitutto, un progetto, una cosa che è diventata alla fine un libro, ma è stato un viaggio che abbiamo intrapreso io e questo fotografo Davide Dutto all'interno di un carcere, e l'abbiamo intrapreso assolutamente per caso, in questo senso. Davide fa il fotografo da tantissimi anni, ma quando aveva fatto il servizio militare l'aveva fatto come secondino all'interno del carcere di Fossano, che è il carcere in provincia di Cuneo, dove poi si svolge tutto questo nostro lavoro. Allora, quindi questo legame non facile con il carcere, perché comunque Davide è assolutamente uno spirito libero, quindi non è uno che poteva fare il secondino, però se l'ha aiutato ad avere questo rapporto continuo, e se ci fosse stato lui l'avrebbe raccontato bene, con il carcere, fino ad arrivare molti anni dopo, da fotografo affermato, a fare diversi lavori all'interno del carcere con i detenuti, laboratori di fotografia e altre cose. Allora, a un certo punto noi ci sentiamo per telefono. Io sono un giornalista che campa scrivendo soprattutto di roba da mangiare, questo per capire l'ambito in cui ci muoviamo. Allora ci sentiamo una sera, ogni tanto ci telefoniamo, ci raccontiamo delle cose, lui mi dice: ah, sto facendo queste robe in carcere, vorrei farne un libro, vorrei farne qualcosa, ma non so bene che cosa farne, non capisco bene che cosa fare. E io gli dico: guarda, io invece mi sono molto stufato di tante cose che vedo, ormai si parla di roba da mangiare dappertutto, non se ne può più, è diventato un fenomeno di moda, non si riesce più a capire, insomma facciamo questi discorsi, uno parla di fatti suoi in realtà, no? E a un certo punto Davide fa: ah sì, ma anche voi finirete a raccontare come si fa da mangiare in carcere. Io ho detto: ma in carcere si fa da mangiare da schifo, come in tutte le strutture dove ci sono le cucine centralizzate. No, i detenuti cucinano. Ho detto: ma cucinano la cosa? No, i detenuti cucinano in cella. Ho detto: cosa fanno i detenuti? Io non sapevo niente, assolutamente, come credo il 99% delle persone che non sono mai finite in carcere. I detenuti cucinano. Ho detto: ridì, i detenuti cucinano. Allora da lì abbiamo cominciato a pensare: ma se i detenuti cucinano, perché i detenuti cucinano? Perché non gli danno abbastanza da mangiare? Forse ci sono delle altre cose. Allora abbiamo cominciato a ragionare su questo, dicendo: ma proviamo a raccontare i detenuti che cucinano. Questa è tutta teoria, nel senso che ci siamo parlati io e lui, poi abbiamo cominciato ad avere a fare richieste nel carcere di Fossano e anche in altri carceri, poi quello di Fossano ci ha aperto le porte per andare a vedere. Ma io sono entrato completamente digiuno in un mondo dove pensavo di andare a fare una passeggiata, questo lo dico con grande onestà, nel senso: vado, faccio delle cose, vedo questi che fanno da mangiare e poi esco e racconto quello che ho visto, cioè, perché credo che comunque il mio mestiere sia quello di incuriosirvi delle cose e di raccontarle, no? Questi sono i due passaggi. Allora, l'impatto è questo impatto ferraginoso con l'amministrazione carceraria, con la burocrazia, per cui tutte le cose semplici diventano assolutamente complesse, ad un livello che ha assolutamente del paradossale, insomma. Cioè, io sono entrato, e poi alla fine questo lavoro noi l'abbiamo fatto durare un anno, e io sono stato molto contento di questo. Io per un anno, tutte le settimane, mi sono presentato al carcere di Fossano, che è un carcerino, sono 130 detenuti, sono una ventina di guardie, sempre quelli, si guardano in faccia, no? Cioè, e tutte le volte io arrivavo e dicevo: ma lei chi è? Sono sempre io, no? Però non puoi dire sono sempre io, te gli dici: io sto facendo questo, ce l'ha il permesso? Sì, controllo, da. Cioè, è una farsa, cioè tutto quello, tu capisci dopo un anno che tutto quello che viene in un carcere è una farsa, tutti si salutano: buonasera, buongiorno, ci sono dei livelli di buongiorno che determinano le gerarchie all'interno del carcere, chi ha potere, chi ce l'ha tra i detenuti, chi ce l'ha tra le guardie, chi conta e chi non conta, no? Allora tu capisci dopo un po', cose, una musicalità del buongiorno, per cui tu capisci che quello, insomma, bisogna stare attenti perché è quello che determina chi si sposta, chi si muove e chi no. Quell'altro, insomma, anche se non, se non lo saluti per cortesia, ma è lo stesso, ecco. E, è un mondo, veramente, si entra in un microcosmo, un mondo a parte. Allora, quando noi otteniamo tutti i permessi per andare lì dentro in questa cosa che viene chiamata un corso di cucina e fotografia, perché in realtà, nonostante noi abbiamo spiegato bene cosa volevamo fare, l'amministrazione carceraria non l'ha capito, ed è il motivo per cui quel libro è uscito, perché va anche detto questo, cioè che quando alla fine noi abbiamo detto bene, noi usciamo col libro, questo ha detto uscite col libro, e dice ma bisognava chiedere il permesso al ministero, detto, noi abbiamo tutto, cioè, noi le foto le abbiamo, le liberatorie di quelli che abbiamo fotografato le abbiamo, qui dentro ci siamo stati un anno, se avete dei problemi chiedete, dopodiché loro ovviamente hanno chiesto e il ministero vi ha detto subito sì, perché ormai è una cosa fatta. Comunque, risolte tutte queste questioni, si fa questo corso, cioè viene chiamato corso di cucina e fotografia, gira per il carcere un elenco di cioè una circolare dove ognuno può presentarsi il giorno tale per partecipare a questa cosa. Ci troviamo io e Davide con questo gruppo di una trentina di detenuti che decidono di partecipare a questa cosa. Ancora si poteva fumare nei luoghi chiusi, per cui ci troviamo dentro una stanza che è una volta di fumo incredibile, e cominciamo a raccontare che cosa vogliamo fare di fronte a delle persone che ci guardano così, e allora tu cerchi di dire, io ho provato a, dice, proviamo a spiegare, ma più spieghi più non, cioè c'era veramente un muro che stavamo creando noi, perché noi stavamo raccontando cosa noi avevamo deciso di fare con loro. Tant'è che a un certo punto io ho tentato una carta da pubblicitare, da marchettare, una cosa che nella vita normale forse riesce, ma lì non è riuscita. Ho detto, in fondo proviamo a fare questa cosa, magari ci divertiamo, se ci divertiamo e va bene, siamo tutti contenti, se no alla fine diventa, è venuto qui un coglione e ci ha fatto perdere del gran tempo. A quel punto si è alzato uno e ha detto, quella parola lì, dottore, se la deve dire da solo, perché se la diciamo noi rischiamo l'ammonizione. Cioè, a quel punto mi si è aperto, cioè io ho detto, cazzo, dove sono? E io ho capito che era un altro mondo, era veramente un altro mondo. E in questo mondo ci siamo entrati piano piano. Abbiamo fatto una scelta di cui io sono particolarmente contento, perché credo che è stata quella di condividere questo lavoro. Cioè noi siamo andati, abbiamo passato un anno lì dentro perché abbiamo voluto farlo insieme alle persone che hanno voluto partecipare a questa cosa. Potevamo fare, ma credo alla fine, adesso lo dico, io è la 18ª volta che presento questo libro, quindi poi magari salto di qua di là, se chiedetemi pure quello che non vi è chiaro, ma ogni volta che io ci ripenso, penso che questo libro non sarebbe venuto come è venuto, non avrebbe avuto il successo che comunque ha avuto, è un libro di cui hanno parlato in tanti, su qua abbiamo avuto dei riscontri importanti, e non sarebbe venuto in questo modo se noi fossimo andati come avremmo potuto fare. Un paio di giornate lì dentro abbiamo raccolto un numero di foto sufficienti, un po' di storie sufficienti da raccontare, quattro ricette, si andava a casa e si faceva il libro sulla cucina in carcere, inteso come, oh guardate anche i libri di cucina, no? Dice, ci sono i panda in via d'estinzione, detenuti che cucinano, queste notizine un po' strane. No, abbiamo passato del tempo lì e abbiamo fatto in modo che questo tempo diventasse altro, per cui quel libro racconta fotograficamente in un'introduzione che racconta questo viaggio che vi sto raccontando e anche attraverso le ricette che ci sono alla fine, un percorso di persone che cercano in tutti i modi di farsi da mangiare, dice, cosa vuol dire farsi da mangiare? Farsi a mangiare è una di quelle cose che magari noi nella, nella vita di tutti i giorni non ne abbiamo neanche voglia, non abbiamo il tempo, che rottura di scatole, no? Cioè anche oggi devo fare da mangiare agli figli, no? Allora in un luogo dove il tempo, l'occupazione del tempo, un'occupazione decente del tempo è forse la, la, la, la più grande scommessa, cioè uno che sta in un carcere, io ho imparato questo, riuscire ad arrivare a sera dicendo ho utilizzato il tempo a fare delle cose che in qualche modo sono mie, e questo in qualche modo sono mie è molto forte, perché il cibo è un'appropriazione di qualcosa che faccio io, esiste una struttura centralizzata che mi dà da mangiare, sulla quale possiamo poi discutere tante cose, ma c'è, e comunque ti sfama, però tu dici io mi faccio se posso da mangiare da solo, utilizzando degli strumenti veramente di fortuna. Allora, nelle celle si cucina con i fornellini a campeggio, quelli da campeggiatori, con la bombolettina di gas piccola perché quella grossa non è permessa, eccetera. Quindi, fornellini a campeggio, un fornellino a testa, tra l'altro pratica che sarebbe vietatissima, nel senso che il fornellino in teoria serve solo a scaldare il caffè, però chiaramente esistono tutti dei meccanismi, delle regole non scritte all'interno di ogni carcere, che dicono che con i fornellini si cucina. Che cosa si cucina? Si cucina quello che ti portano i parenti e gli amici da casa e quello che tu puoi comprare nello spaccio del carcere. Comprare nello spaccio del carcere significa, questa è una delle cose che a Fossano, che è un carcere piccolo, stride poco, in carcere più grosso stride di più, significa avere dei soldi. Avere dei soldi che non si hanno fisicamente, perché in un carcere non si possono avere dei soldi, si ha un conto corrente, che è un'altra di quelle forme burocratiche allucinanti, perché ogni detenuto ha un conto corrente, indipendentemente dal fatto che sopra non ci sia un soldo. Per cui nel momento che voi entrate in un carcere, voi vi chiamate Mario Rossi euro zero. E tutti i mesi verrà riscritto Mario Rossi euro zero per tutta la vita, finché un parente vi manderà dei soldi, oppure voi lavorerete per l'amministrazione carceraria, perché è possibile lavorare per l'amministrazione carceraria, chi cucina nella cucina centralizzata viene pagato per questo, i soldi gli vengono versati su questo conto corrente. Allora, chi ha soldi fa la spesa, cioè prende un foglio e scrive un barattolo di pelati, 2 chili di pasta, mezzo chilo, lo passa a chi fa il giro ogni giorno, e il giorno dopo, o 2 giorni dopo, a seconda se sono dei periodi o non dei periodi, gli arrivano le cose ordinate, e quindi si può fare da mangiare. Qui apro una parentesi, che è una piccola denuncia che noi facciamo ogni volta che presentiamo un libro, ma perché è una cosa che va detta, è una cosa tristissima, che c'è e che nessuno dice, e che ogni volta che la si dice è una cosa marginale, perché i problemi dell'umanità sono infinitamente tanti. Allora, perché è permesso far da mangiare in carcere quando ci sono un sacco di altre cose che invece non sono permesse? Esiste tutto un meccanismo strano legato al vitto e al sopravvitto che è paradossale. Allora, se voi per dare da mangiare un detenuto in carcere si acquista la batteria prima da un fornitore esterno che partecipa a una gara d'appalto. La gara d'appalto prevede una base d'asta di 1 euro al giorno per dare colazione, pranzo e cena ad un detenuto, cioè con meno di 1 euro al giorno si acquista quello che serve, dopo la mano dopo, cioè a far da mangiare ci pensa il detenuto, dopo si acquista la materia prima, si vince a ribasso, quindi voi partecipate alla gara e dice la fornitura del carcere di 80 centesimi, colazione, pranzo e cena. Allora, chiunque vince la gara d'appalto per il vitto in un carcere ci rimette, e lo sa benissimo. Ma perché partecipa alla gara d'appalto? Perché automaticamente, nonostante la legge non dica questo, la legge dice che andrebbero fatte due gare distinte, ma in realtà non vengono fatte due gare distinte. Automaticamente chi vince la gara d'appalto per il vitto vince anche quella per il sopravvitto, ovvero per vendere i beni che i detenuti si comprano da soli. C'è l'altro cibo. Sì, esatto. Quello è il sopravvitto. Quello è il sopravvitto. Quello che i detenuti comprano con i loro soldi. E poi sono le lavette da barba, la schiuma da barba, c'è cioè tutto il sapone, tutte le cose che tutto può acquistare. Allora, queste cose hanno dei prezzi stranissimi, nel senso che anche lì la legge tutela teoricamente i detenuti dicendo bene, allora, le cose non possono costare più di quanto costano nel più vicino supermercato, a parità di marca, cioè la pasta Barilla non costa più del più vicino supermercato, ma la pasta Arambrose Brodou, che esiste solo in carcere, ma vi giuro, esistono delle cose che voi nella vita non avete mai visto, soprattutto le bombolette del gas, che delle marche incredibili, costano l'ira di Dio. Perché nel vicino, più vicino supermercato non ci sono, voi non troverete mai in nessun supermercato, e quindi il prezzo viene fatto dalla ditta che ha vinto la gara d'appalto per il vitto e fornisce anche le materie per il sopravvitto. Questa è una piccola schifezza delle tante che accadono in Italia. Noi ci siamo imbattuti in questa, l'abbiamo verificata su altre, abbiamo scoperto che tutta l'Italia è così, cioè che questa è la struttura, per cui in realtà lo Stato, l'amministrazione carceraria, tiene in galera della gente e ci fa la cresta sopra, sostanzialmente, detto portando il ragionamento in interno. Con tutta una serie poi di altre cose, allora, nella cucina centralizzata, quella che in realtà con questi 80 centesimi riesce a dare il pranzo, e se si mette d'accordo bene con i detenuti riesce a darlo anche decentemente, perché mettersi d'accordo bene con i detenuti significa che nella cucina centralizzata si cucina la pasta e il sugo, poi ognuno ci mette l'olio e il formaggio comprato in tasca propria, allora si riesce ad avere una quantità di pasta e di sugo sufficiente. Cioè, ci sono questi meccanismi qui che sono meccanismi di contrattazione interna al carcere, per cui se tu vuoi che quello che venga dalla cucina centralizzata sia sufficiente, devi cercare di condirtelo da solo. Questo è il succo. Va bene, comunque in queste cucine dove si cucina l'equivalente di 80 centesimi di euro di materia prima, esiste però un ricettario del Ministero della Sanità che è stato fatto appositamente per il benessere dei detenuti, per cui c'è questo ricettario ricco di ricette di ogni genere, tutte ovviamente per quattro persone, no? Perché le popolazioni carcerarie sono fatte in questo modo. Questo è il mondo A, il mondo che ti reclude. Poi c'è il mondo B, il mondo recluso, quello dove io sono riuscito ad acquistare, dico, noi abbiamo fatto questa esperienza in un carcere fra virgolette vivibile, per quanto sia vivibile un carcere, insomma, dove non ci sono grandi tensioni, dove bene o male il cibo sono divido in ordini, per cui non esiste, in una realtà così piccola non esiste la cella di quello che ha tanti soldi, compra per sé, chiama i suoi amici e tutti gli altri non mangiano. Lì bene o male anche chi non ha da comprarsi niente, insomma, divide quello che gli altri si fanno a mangiare. Comunque si acquista il cibo, o meglio ancora si ottiene, c'è stata una festa una volta grande per un pollo che era arrivato dalla vicina, no? C'è tutto questo passaggio, ma nel pacco c'era il pollo e quindi lì c'è stato un grande dibattito su come questo pollo doveva essere cucinato, ed è stato un momento assembleare all'interno di una cella dove queste persone avevano questa cosa, che significa, questa è la cosa che io ho imparato, significa dire: il pollo è mio, lo cucino io determino quel poco di... io ci sono, io esisto, mangiando io sono qualcuno, io mi ricordo o sono proprietario dei miei ricordi, delle ricette della mia nonna, metto a disposizione la mia storia ai miei compagni di cella perché mi sono antipatici, perché mi sono simpatici, trovando, ci sono dei percorsi, ecco, riguardo a quello che diceva prima Sergio sulla popolazione carceraria che proviene da mezzo mondo, cioè le carceri sono anche, se vogliamo vederle, un laboratorio di convivenza fra gente che fuori non riuscirebbe a convivere mai. Perché? Perché se uno ti sta antipatico, se uno viene da un paese che non conosci, ti fa paura, te lo vedi da così, giri l'angolo e il problema è risolto. Allora, dove si vive in 5, in 3, in 4, tu non giri l'angolo, perché sei chiuso lì dentro e dici, questo mi sta antipatico. Allora, potresti accoltellarlo, ma in un carcere, insomma, di una certa dimensione, dove bene o male ci stai un anno, due anni, non di più, insomma, rischiare di starci tutta la vita perché uno ti sta antipatico non è una buona soluzione, quindi ti tocca trovarne delle altre. Ecco, io ho visto dei laboratori di semplicità bellissimi, vi racconto questo, no, a un certo punto, proprio nel cercare, perché si è instaurato questo rapporto che poi è stato il contrario dell'inizio, cioè questa cosa partita fredda è finita veramente in un legame forte tra persone in quel ambiente. E allora a un certo punto c'erano questi due ragazzi, uno peruviano e l'altro ecuadoregno, che si sono messi a discutere su quale poteva essere il piatto che più di altri rappresentava l'America Latina, perché loro in quel momento hanno deciso che loro erano Sud America e quindi insieme hanno detto ma tu probabilmente non avevano mai parlato davvero di quali erano i piatti della loro terra. Alla fine trovano uno che può andare bene a tutti e due, che è il pollo alla giardiniera, il pollo con le verdure, per cui decidono qual è la ricetta comune e cominciano a farla. Quindi fanno questo pollo con queste verdure, con il riso. Preparano i piatti, in cella con loro c'era l'unico detenuto piemontesissimo di questo carcere in Piemonte, tanto anziano, no? Quindi anche una... Schifo! Come si fa a mangiare il riso assieme al pollo, no? Inorridito! Allora questi si guardano in faccia e gli fanno un piatto di riso e un altro piatto col pollo. E questo mangia, cioè... È una cosa, sembra banale, ma non è banale, cioè noi molte volte nel rapporto con la gente che proviene da altri paesi, che ha altre culture, altre cose, non siamo capaci di separare il pollo dal riso. Questi qui a un certo punto pesavano 3 minuti, o lo menavano, oppure separavano il pollo dal riso. Ecco. È una cucina, dal punto di vista della cucina, una cucina incredibile, perché questi riescono a proporre delle ricette complesse, perché comunque hanno necessità di occupare il tempo, costruite con niente, cioè il cibo è quello che è, gli strumenti sono le pentole che sono lì da sempre, perché ognuno quando se ne va le lascia lì in eredità a chi arriverà dopo, non si possono usare i coltelli, non ci sono coltelli in carcere, per cui c'è il problema di tagliare, no? con cosa si taglia. Allora, per tagliare le verdure finissime cosa si usa? Si utilizza il coperchio della scatola dei pelati, quindi si apre la scatola dei pelati, si prende il coperchio, si taglia le verdure finissime e poi bisogna far sparire il coperchio della scatola dei pelati, perché non fosse mai che durante la perquisizione qualcuno prendesse quello per un coltello, perché non lo è, serviva solo a tagliare le verdure. Quindi c'è tutto questo meccanismo tecnico anche. D'estate il frigorifero è nello spazio che c'è il carcere di Fossano, un carcere vecchio, un convento delle Clarisse, seicentesco, molto bello tra l'altro dal punto di vista architettonico, per cui c'è questo spazio tra l'inferriate, ci sono le vere inferriate e la finestra, uno spazio così, nelle immagini forse anche lì si vede, comunque quello è il frigorifero d'inverno, ma d'estate come si fa? D'estate tutto quello che si vuole mantenere decentemente fresco si mette nello sciacquone, si apre lo sciacquone del bagno, quello dove, quando si tira l'acqua, dentro c'è l'acqua, si mette lì, in mezzo all'acqua ci chiude tutto ermeticamente e quello è il frigorifero. è veramente una cucina di resistenza, con della gente che fa delle cose ma buone davvero. Io ho conosciuto questo Ciro, che è stato un po' il personaggio che ha seguito questa cosa. Ciro è un personaggio incredibile, perché è uno che dice: io ho insegnato a fare la pizza, modestamente ho insegnato a fare la pizza in 39 carceri italiane. E lui la pizza la fa bene, e dice: ma scusate, io sono un dottore, le faccio la pizza. Dice: come fai a fare la pizza, che non hai il forno? Le faccio la pizza. Allora questo comincia aprendo una padella, la bagna, ci mette dentro un'altra padella, la unge leggermente con l'olio, poi stende l'impasto della pizza che aveva fatto lievitare, aveva fatto... poi ci mette sopra il pomodoro, il basilico coltivato dietro la finestra, un po' d'olio, la mozzarella, prende una terza padella, copre le due padelle sotto, tiene chiuso così e se ne sta 20 minuti a cuocere sopra due fornellini a campeggio. Devo dire, quella pizza era buona, era molto più buona di tante altre. A un certo punto dice: scusa Ciro, ma perché tu non fai il pizzaiolo? E lui giustamente dice: ma lei lo assumerebbe uno che nel suo curriculum ha solo rapine? Cioè, lui dice: ma dove faccio ad andare in una pizzeria a dirgli mi assuma? Dice: ma mi porti il curriculum? Dice: io solo rapine, conflitti a fuoco e cose di questo tipo. E questa è la realtà. Ne è nato un libro del quale noi andiamo in giro, ne parliamo, lo raccontiamo, del quale non riusciamo quasi mai a portare qualcuno dei protagonisti di questo libro, perché quelli che sono usciti giustamente sono usciti e noi siamo molto contenti. E quando una persona è fuori è un'altra persona. Io credo che il carcere ti costringe ad essere qualcos'altro, nel bene o nel male, e quando sei fuori giustamente non hai voglia. Cioè, se io fossi stato in galera non avrei voglia poi di andare a raccontare il libro che ho fatto. Quelli che sono dentro non li lasciamo uscire, noi li chiediamo continuamente, ne siamo usciti una volta sola ed è stata secondo me un'esperienza molto bella. Siamo andati in una... Bologna. No, non a Bologna, vicino a Bavoro, siamo andati in un circolo culturale legato alla tradizione vinicola. Stai dicendo di questo carcere di Bossano? Sì, di questo carcere di Bossano. Sì, a Bologna sono usciti nuovi. No, a noi piacerebbe portare in giro i detenuti che hanno fatto questo lavoro con noi. E siamo riusciti a portare questo lì, è stata una cosa veramente bella, perché comunque... Cioè, è un libro che è stato giocato davvero a più mani, è raccontato così, e dopodiché hai a che fare, con un'amministrazione che dopo che siamo riusciti finalmente a ottenere i permessi ci dice: mi raccomando, riportatecelo alle 8, se gli succede qualcosa la responsabilità è vostra. Ho detto: no, la responsabilità è la doppio piano. E non fatelo bene, andiamo a fare una presentazione da un produttore di Barolo, non fatelo bene. Ovviamente è rientrato alle 8. Ecco, basta, non è solo questo. Non lo so, questo è il percorso che abbiamo fatto. Se volete chiedere, sapere, intervenire, dire, io ecco, ho un po' questa cosa, appunto, l'ho presentato tante volte, delle cose le do per scontate, magari non lo sono. Cioè, mi viene a dire una cosa, poi dico: l'ho già detta, è ovvio che l'ho già detta, ma voi non c'eravate. E, per cui, insomma, siamo qua.